guarda che l'olio non va nell'impasto, Gianni, va solo nella teglia. Ehi, ma praticamente Corraduzza, io sono andato, l'ho visto tante volte facendola e ci metteva, l'olio lo metteva nell'impasto anche. Praticamente lo metteva nella teglia, poi ci metteva due misturi d'olio, girava e la girava tutta quanta, capito? No, che schifo! Schifo, moralità era. No, ce ne va olio nell'impasto. E la teglia solo va all'olio. Che ci ripone a rosso nell'impasto non ve la buona a fare. Ma è strano, perché non ho mai visto buttando olio nell'impasto? Gianni, esce la Boccaria, esce. Io anche l'ho visto tante volte fare, anche perché io andavo verso la chiusura, perché poi uscivamo insieme, quindi andavo sin quando chiudeva e poi andavamo in giro. Io guarda, me l'ho fatto dire due o tre volte a mezz'ora, poi guardo su internet e l'olio delle pasta non ci va. Facciamo da bravi, dai, che c'è una cagata, esci, no? A me così, manco lo faccio, manco ci tento, perché so che mi esce la schifezza, poter buttare via tutto. Oppure mi ricordo che la faccia buonissima, era molto migliore. Avete parlato in due, io ho sentito solo a Gianni, chi c'era, Natalina sotto? No, c'ero io. Cosa hai detto, ma tu, ripeti? So che qua, qua era buonissima, era, ma proprio buona, era uno dei migliori a Sassari. Ma quello che metti allora nell'impasto? No, non lo so, quello io non l'ho mai visto, la verità, io mi ricordo come Stefano, non so quando la dice, girava con l'acqua, io l'olio nell'impasto non ce l'ho mai visto. Quando ero più piccolo me la faceva fare a me. Comunque, già, se per un gusto, se conosci uno che fa la ferendino, ma allora del telepasso ci va. E vedo da dirci. Magari come la girava ci andava anche lui in mezzo, non lo so, come girava l'impasto, magari ci andava anche lui. Allora, è una cosa, quando tu oli tutto quanto, diciamo, il contorno della teglia, e poi li metti questi 100 cucchiai di olio d'oliva, poi lì, giustamente, devi scoprire tutto di olio, non è che siete più chiaro, sono quasi nulla, amici. Quando poi metti l'impasto dentro, con la palettina in plastica, la scuoti un pochettino, la giù che così è massa, ma non ci va quando fa l'impasto l'olio, quello no. Magari mi ricordo male io, non lo so. Io mi ricordo che la girava così e c'era anche l'olio in mezzo, non lo so poi se lo metteva nella teglia, se lo metteva nell'impasto, però mi ricordo che l'olio si vedeva, quando lui lo girava bene l'impasto con l'olio, lo girava tutto e poi ci metteva la cipolla. Ah, ma per domanda Gianfranco. Comunque come dico io, dai, anche la taglia l'ha confermato, dai, ma che non ci va. Ancora mangiando fainetta a te. Vedà, Carle. Ciao Carlo. Ciao Gianni. Allora, Tonino è che sta facendo, si vuole aprire il forno. Già ho visto tutto. Niente, io mi sa che la prendo stasera perché prima ero alla radio e è rientrata mia moglie che era ai colloqui di scuola per mia figlia. Adesso se ne sono uscite e vanno alla fiaccolata per quella Giulia che è stata uccisa, che parte dall'emiciclo, poi non so dove finisce. E poi praticamente dice mi chiamano, vado a recuperarle e rientrando ci prendiamo la faina. Dove la prendi Carlo? Da Oggiano solitamente io la prendo perché la fanno buona su in via Catalocchino, angolo Viale Dante. Ciao Giano. Sono andato tante volte lì. Mi faccio male pizzetta al taglio, un bel buono. Andate da Toyo Kawasaki che la fede è migliore. Io attacca Ruforru, Tony. E niente, adesso quindi sono risalito e ho visto il frequenzimetro che si muoveva perché avevo abbassato il volume e ho detto vi ho sentito e quindi sono rientrato. Chi c'è? Natalino, Gianni, Tonino, Antonio e poi non so se c'è qualcun altro. Sono io che sono appena rientrato. Ciao Luca. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Gianni, Tonino, altro ci sei? Sì, adesso già. Ok, non bisogna lui come si è fatto, altro. E allora Luca? Niente, tutto a posto, c'è tutto a posto, tutto come prima. nuda? Niente Carlo, nulla. Ma non hai capito da fare, meno male, sono guai. Oia, mamma mia. No, niente, nulla, laggiù da te. Non ho ricevuto nessuna... Nulla, niente, non accenno, nulla. No, da noi è tutto fermo, pochi voli e quindi non hanno preso neanche gli stagionali, solitamente li confermavano, invece nulla. Pazienza, sarebbe bello lì, a me piacerebbe, mi sarebbe piaciuto un sacco, anche fare i notturni se ne frega. E vabbè dai, mai dire mai, poi se so qualcosa già ti avviso. Yeah, yeah. Va bene, avanti. Ma tu la domanda devi fare live e Magnelli. Cosa già, scusa? Ho detto quando mai devi fare live e Magnelli. Io mangio sempre live. Mi siedo. Perché? Perché stavo girando e ti ho visto, tu vai Luca Magnelli. E facciamo sempre così, entriamo in quella live e mangiamo. Interessante. Così tutti sanno quello che mangio. Luca, ti ho mandato la foto che ho fatto la fai stasera. Dunque io ho preso la chiesa di via Nurra, ma non mi è piaciuto da nulla. La fa buonissima quello lì. Pira è praticamente il nipote di Cicciu, fatti un conto, se non la fa buona. No, ma non mi è piaciuta, cioè è troppo grossa, fino, ma la fa bene. Magari è successo quel giorno lì, però qua la prende Natalino, la prendo io e ci è sempre piaciuta. Adesso a te non ti è piaciuta, magari un giorno gli è uscita male, che adesso può succedere. Bella Tony, bella, bella. È un memone uscita. C'era Franco a casa mia che stava giusto nel condizionatore e c'era mangiata a burretto. Hai visto. Chissà domani vado in via, no via Usa, l'altro. Da Benito vado domani. La Benito è buonissima. A me piace zucchine peperoni, buonissima. È uno spettacolo. C'ha questo retrogusto, guarda, è uno spettacolo buonissimo. Io l'ho mangiata anche con la Nutella. L'hanno fatta di mille colori, tipo giro pizza lì, però l'hanno fatto giro fainì e ne ho fatto tante teglie con tanta roba dentro, con i peperoni, con le zucchine, con le melanzane, tutta roba, praticamente alla fine anche con la Nutella. E giro che è buona. Anche io l'ho mangiata così, Tony, a sorso. Dall'ele. E questo l'ho mangiata io, questo giro fairy da Benito, mi è staponeale, Benito sì. Sì. Io l'ho mangiata dall'ele a sorso. Avevamo fatto la l'incontro della chat di quelli che ci attendevamo e l'abbiamo mangiata lì. È buona dai, io peccato che ho una cipolla solo oggi, però domani mi rifaccio, la farina di cicci già ne ho un bel. Ok, Natalino, non ti addormentare. Ma lo sai chi la fa buona, buona, buona qua in Roma? La ruota, buona vita e sapponiglia. Chi ce l'hai l'antidozzi? No, a tu. Quello che c'è, pardon, sono i due, al chilometro, dai. No, l'antidozzi proprio, in via Vivanti, dove c'è la Crai sotto. Sì, ho preso una volta la pizza là e non mi è piaciuta nulla. È buona, Tony. Ma lì, cazzo, la saliva, vero, c'è un sapore. Giusti. Prima la faceva anche questo sotto casa, la Ferri, però la faceva pagare un bel, adesso non ha più fatto perché sta facendo roba fritta e panini al posto della Ferri, oltre le pizze. Scappa. Guarda, ti posso assicurare che io l'ho presa la Ferri lì, ma c'è un sapore proprio buona. La Natalina non c'è più. Sto mangiandomi qualcosa, mi devo pigliare la bacchiglia. Ti riascolto, dai. Ok, buon carico e buon ascolto. Avanti già. Ehi, è venuta a fare Natalina, fuori proprietà di magna. Invece a me mi fanno male tutte le gengive. Stasera sono andato alle 2:30, avevo l'appuntamento per la pulizia dei denti, ma minchia, un'ora ero là sotto perché ero un anno senza farla e quando stai, se la fai ogni 6 mesi non ti fanno male le gengive, se stai un anno e passa ti crepa, quindi ci vuole roba morbida come la fai in stasera. bravo, bravo. Mangia le 80-80. Usa il conduttore, io uso il conduttore quando si infiamma. Già passa, non è quello. A domani non sento più niente. Adesso sento tutti i denti larghi, puliti, e quindi a masticare faene già va bene. Anche a me è successo, mangiando frutta secca. Infatti penso forse, siccome ero da dentista, quando sono andato a fare una visita da prima da coso, da... quello che c'è in via Alghero, non mi ricordo il nome, vabbè. E poi sono andato dal mio, perché mi è uscito il dente, già lo sai. Mi è uscito il molare, questa mangiano quelle caramelle, quelle gommose, cazzo, masticando. Ci tucassi il dente in bocca, no, non esiste. Allora cosa ha fatto? L'ho chiamata a prendere un appuntamento, fammo sistemare, dice se non c'era posto fino a gennaio, ho detto no, non è possibile, non posso stare così io. Comunque sono andato, me l'ha cementato e adesso è a posto. Ma il dente è tuo? No, quello col pelo, quello fisso. Capito. Perché tu ne hai uno staccato dagli altri? Sì, lì sì. Poi c'è l'altra parte, no. L'altra parte sono tutti attaccati. No. Sì, adesso devo fare la pulizia a gennaio e poi devo fare un preventivo per gli altri, che mi mancano altri due, forse anche tre se riescono a drizzarmi questo qua, un casino già. Io ho un dente girato e dentro non ci sta, bisogna fare una specie di intervento per poterlo spostare, girarlo là, metterlo dritto, in modo tale che ci sia l'altro dente, sono tre denti che mi mancano. Sì, vabbè. Ma piano piano lo fai, che sono ben costosi, metterli a uno non conviene più mettere tutta la parte e basta. Già, ma purtroppo posso dire che sto bene così, posso dire che sto benissimo, infatti io volevo anche quello lì per lì, levarmi i miei proprio, metterli fissi, e lui mi ha detto la serietà che quelli sono oro, anche se sono così, ma sono oro, sono resistenti, infatti lui metteva la mano in bocca, tirava, per vedere se erano forti, i denti sono buoni già, i miei, quelli di sotto, dice vabbè sono un po' macchiati dalla sigaretta col tempo, ma non si può fare niente, praticamente ci manca la dentina. Vabbè, piano piano, sono cose costose, il dentista è una cosa, io gli avevo lasciato 18.000 euro, io sono, ma lasciamo perdere. I denti sono beccati già, poi uno smuona la dentiera, se ne abbocca un duo, e così. Ciao Luca. Ce ne sono tanti, ma sono tanti giovani, che, tipo quarantenni così, fanno già la dentiera, che vai, hanno i denti messi male, non si può fare niente, hanno già la dentiera. Vabbè. No, comunque io già, te lo ripeto, mi mancano questi tre denti, già mangio bene, mangio tutto, io non ho problemi. La roba croccante, troppo dura no, non me la rischio, però già mangio, dai. Sì, vabbè. La roba dura anche con i denti tuoi, è sempre un rischio mangiarla. Avanti caro. Io ho cambiato dentista perché prima stavo andando da Zara, però solo la pulizia 90 euro. Oggi l'ho fatta e mi è costata 10 euro perché ho trovato un dentista che è, diciamo, affiliato a Fasi Open, che è un fondo di assistenza che abbiamo noi nel settore trasporto aereo, e praticamente il dentista praticamente viene rimborsato, però tu di tuo paghi solo 10 euro, però non ti rilasciano fattura per le detrazioni, ma non me ne frega niente, praticamente la pulizia di oggi 10 euro, poi c'ho un dente che mi devo rifare perché c'è la vecchia otturazione che si è un po' rotta, mi ha detto te lo rifacciamo noi, un'ora e mezza di lavoro, 133 3 euro, sempre con questa sovvenzione, se no era 2,90, capito? Quindi alla fine con 146 euro sto facendo sia la pulizia che la riparazione di un'otturazione, capito? E, Dental Pro, quelli che ci sono in via Mendola, mia angolo, cos'è quella, non mi ricordo in quale angolo è, sotto dove c'è la gelateria, capito? Quella zona sotto piazza Salvatore Ruiu. Sì, ho capito. Io ero andato lì una volta, sì, sono andato con mia moglie, doveva fare un lavoro lì e siamo andati insieme. Sì, lì è abbastanza organizzato, tipo una clinica, sì, ti fanno tutto, ti fanno la lassa, ti fanno tutto quanto, dalla lazzetta. Solo che non mettevano denti come volevo io, li mettevano in resina. Ah sì, ho capito, sì, fanno anche l'implantologia, capito, mettono denti fissi, eccetera, fanno tutto. Io ho la fortuna di avere i miei, capito, c'ho solo due otturazioni e una di queste sta saltando, capito, però me la rifanno bene in resina e quindi sono arrivato sino adesso, mi durerà altri 20 anni e poi si vedrà. L'importante è fare almeno due pulizie l'anno, capito, e quello aiuta parecchio, e usare il filo interdentale quando è possibile, capito. Diciamo che se questa cosa la fai in maniera costante spendi sempre poco dal dentista quando ci vai, se no è un salasso. E poi io, guarda, non avevo uno di denti guasto, solo che mi è venuta la piorrea, li ho presi così. La piorrea non c'è niente da fare, ti si gonfiano le gengive, si nebulisce la radice e te ne escono così, con le mani li toglievo anche i molassi. Allora, già, di solito è soggetto il diabetico a perdere i denti, di solito, non tutti, però una percentuale sì, può avere problemi ai denti, capito? Sì, come dice Carlo, se tu hai un piccolo problema, so, vedi, per esempio, io ho l'esenzione e sono andato da, come si chiama, la Ventura, come veniva il nome, praticamente io mi stavo tagliando le unghie, mi sono sbeccato un dente incisivo, e sono andato da Ventura, ho fatto il controllo, e praticamente, allora, il 29, che sarebbe mercoledì, devo andare al Conti a fare la panoramica e poi portarla all'avventura, che c'è l'appuntamento alle 17 e mi fa la ricostruzione del dente. Diciamo che va limato perché mi dà un fastidio, guarda, è sempre lì la lingua, è un fastidio allucinante. Poi mi ha detto che mettendo i tre denti, facendo l'intervento di cui ti stavo parlando prima Gianni, mettendo i tre denti mi ha detto un sorriso perfetto. Pensaci tu un po', vedi tu dove ti conviene. Io ultimamente stavo andando da Masette, c'era presente Carlo dove Masette, dove c'è Roberto Quadrato, fa angolo, lì vicino. Sì, già lo so dove quel dentista. Bravo, veramente lo zio era più bravo, lo zio prima era il Valdero. Poi è andato in pensione, però sta facendo qualche cosa nei paesi, non so se Auri mi pare, ma io di Auri non ci devo andare, se ce ne sono 50.000 a Sassa ne vado a Auri. Lui è andato in pensione, ha lasciato solo quello di Auri, quello di Alghero, l'ha chiuso, e il nipote con altri lì, c'è Pazente, poi ce n'è un altro, come si chiama, lo stesso famoso Molica, che deve essere parente del ginecologo, e poi ce ne sono altri, ci sono diversi ambulatori, capito? C'hanno addirittura tutto per fare anche la lastra, c'hanno tutto, è molto bello come ambulatori, è bellissimo. Ho capito, sì, ma a Sassari abbiamo la fortuna che ce ne sono diversi, quindi hai l'imbarazzo della scelta. Lì Studio Zara, che c'è in via Carlo Felice, anche lì sono ben organizzati, solo che è un po' caro. Caruccio, capito. E io sto sfruttando la sovvenzione che ho, capito, con la mia azienda. E ho trovato Dental Pro che diciamo, è sovvenzionato con Fasi Open e quindi ci spendo pochissimo, capito? Invece però è solo io in famiglia che la posso fare, capito? Tutti gli altri ce li ho da Zara, perché mio figlio ha l'apparecchio già da 4 anni, però gli hanno detto che tra un po' le vanno tutto. Mia moglie lo stesso aveva denti davanti un po' storti, accavallati, e gli hanno messo quelli trasparenti che non si vedono, no? Che lo togli quando devi mangiare e poi te lo rimetti. Roba di 4.800 euro, capito, gli costa in tutto, però se lo paga piano piano. Mia figlia invece è più fortunata e come me ce li ha tutti sani e ogni tanto fa solo la pulizia, capito? Poi per il resto niente, quando si può risparmiare si risparmia e quando ci vuole bisogna fare un po' di sacrifici, ma meglio tenerli a posto i denti, se no non puoi mangiare né fai né nuzza. E poi anche la digestione, se non c'è denti a posto fai una brutta digestione, non riesci a digerire bene, se non mastichi bene non digerisci bene, normale, no? E anche la masticazione deve essere perfetta, perché anche quando ti mettono l'impianto ti misurano la masticazione, devono combaciare bene, eccetera eccetera, e tutta la cosa, infatti ti fanno tornare 100.000 volte, io sono stato quasi un anno che tornavo, per cui vabbè, lasciamo perdere quello che è successo, hanno ceduto gli impianti e niente. Ho capito. E niente, quindi un po' stasera casalingo, ho fatto la notte ieri e stamattina sono rientrato alle 8:30 perché facciamo da mezzanotte alle 8. Però poi mi avevo messo la sveglia all'1, me ne sono andato a letto, ho dormito 5 ore e poi alle 2:30 avevo l'appuntamento dal dentista. E quindi stasera sono, diciamo, smontante, domani sono di riposo e poi rientro di sera, capito? Poi c'ho un 3-4 giorni di ferie che mi sono preso sino al 2 di dicembre e poi vediamo a Natale se riesco a scroccare quest'anno anche i giorni di Natale a casa, se non me ne vado a lavorare, pazienza. Calma. Ti auguro di sì, dai, avanti Tony. Casino, dentista troppo caro, troppo. Io penso per fare quel lavoro mio, penso ci vorranno, farò di farlo per 5.000. Lo so, ci vuole un bel po' di quattrini a fare gli impianti, ogni dente penso che sia intorno ai 1.000, 1.300, qualcosa del genere. Quello che ho messo io, non mi ricordo se è 1.800 o 1.500, non mi ricordo. Grazie Francesco. Uno, un molare. Questa assicurazione sta a fondo est, però quando sono andato a fare i lavori mi hanno detto che devo andare da quelli convenzionati, a me se non mi piace quello convenzionato cosa ci vado a fare? E quello è il problema. In effetti è così, costa. Però dai, sono stato fortunato che arrivati a posto lì non mi ha preso niente. Perché me l'ha tutto smontato, pulito e fatto. Non l'ha rimesso, me l'ha di nuovo abitato. Moncone, poi si chiama Moncone, sì. E niente, paziente, adesso vuoi fare la fine. Quando te ne freghi, non te ne curi, è quello. La masticazione è troppo importante. È importantissima, no? Importantissima. Tu pensi che io ho sempre mal di stomaco? Io stavo pensando, ma non male lui non dici già ciuffendi. No, certo, me ne è uscito mangiando una caramella gommosa. È quello che me ne ha stracciato. Perché incementati non conviene metterli, conviene metterli quelli con la vite, incementati non valgono una cicca, perché ne escono sempre, te lo metto, ti dura un po' di tempo e poi te ne esci di nuovo. No, dipende, io ce li ho i molari sulla destra, sono cementati e posso dire, dipende da che cemento ti mettono già, lui me l'ha garantito a me che non escono, non escono già. Non ho capito. saranno 10-15 anni, magari un po' si possono staccare. Cadere giù. No, allora io, quello che me ne è uscito, ora avvitato già, si è staccato il moncone, quante cazzo di giamma, che sarebbe il perro che va a finire dentro, poi va avvitato, capito? Quello lì. Benvenuti in questa live. Sì, aspetta che stacco qua. Si è staccato, da lì proprio. Allora non me l'ha cementato, perché se no dovevo portarlo dal tecnico, fammelo rimettere a posto. Understand? Ho capito. Te l'ha incementato, ma il cemento va attaccato al moncone. E dove l'ha attaccato se ti è uscito il moncone? Allora te lo spiego cosa è successo. Mi ha messo il moncone. Allora, abitato, sopra ci ha messo il cemento e ci ha messo il dente sopra. E l'ha cementato. Ah, ecco. E quindi l'avrà messo il moncone, ne avrà messo uno più grosso, perché se è riuscito è perché ha allargato il buco sicuramente, e si è infiammato l'osso, come è successo con me. Si infiamma l'osso e lo butta fuori. No, si è staccato proprio dal dente, moncone è sempre quello. Si è staccato dal dente già. E mi ha detto di aspettare, cioè ieri non mangiare dalla parte sinistra che me ne è uscito. E niente, sembra che sia... Ah, è a posto già, è fermo, prima si muoveva. Ti muovevo anche io. Lo sono fatto anche io. Certo, boh. Però se tu lo metti, allora, se, quando me ne è uscito, io me lo sono rimesso, avevo anche la paura, no, che non entrasse. Ma me ne esce già. Poi si mette a mangiare le caramelle con mose e si stacca, però non è uscito, rimaneva fermo, bello. Si muoveva, sì, se tu lo giocavi. No, ho capito. Essendo gommosa magari si è attaccato e te l'ha tirato fuori. Cosa già? Ho detto magari essendo gommosa la caramella si è attaccata al dente e te l'ha tirato fuori per quello. E più che gommosa è appiccicosa là. Sì, perché già il dente in sé si muoveva, faceva, cioè tu lo toccavi si muoveva. Infatti lui lo sapeva, devo fare il lavoro, poi ho fatto l'intervento al naso e purtroppo non ci potevo andare, dovevo stare praticamente a riposo, infatti glielo ho detto, ho avuto l'intervento al naso, adesso a gennaio ci devo andare a fare la pulizia. E beh, il naso ti ha migliorato? Sì, respiro bene già. Forse facciamo questa cura di cortisone. Meno così, dai. Avanti a chi tocca, Antonio, Tonino, che scappati sono? Avanti in casa. Insomma, di cose da fare ce ne sono sempre. Io lo stesso ho la patente che mi scade a gennaio, ai primi di gennaio, e lo devo fare prima, se no poi con la patente scaduta mi viene in salita. Però ho la fortuna qua che ho l'autoscuola di Torre Cano e Franco Chessa in via degli Astronauti, vado lì e me la rinnovano lì, visita e tutto quanto faccio lì, va il medico due volte alla settimana, mi dicono cosa, che versamenti devo fare, e così nel giro del mese di dicembre, capito, sono a posto. Non deve fare nulla, lo fanno tutto loro, tu li dai su e loro fanno tutto, cioè già i versamenti pronti, perlomeno. Io in via Pascoli, quando sono andato, ho pagato quel tanto lì 70 euro, hanno fatto tutto loro. E così farò, infatti, perché da parecchio che non ci vado da loro. Mio figlio si aveva preso la patente da loro, e mia moglie un giorno è stata graziata, che aveva la patente scaduta un 6 mesi fa, l'hanno beccata e gli hanno detto vada subito a rifarla, facciamo che non ci siamo visti, l'hanno voluta molto bene, se no cavolo erano dolori, non si era accorta che era scaduta, e quindi è dovuta, per farla velocemente è dovuta andare a fare la visita da un medico che, hai presente dove c'è la Conad su, c'è una specie di società che fa pratiche auto, l'ha fatta lì, gliel'hanno fatta veloce nel giro di 2 giorni, capito, gli hanno dato il foglio provvisorio, poi quando è arrivata è andata e l'ha ritirata. Sì, adesso ti arriva direttamente la patente nuova, non è più come prima. Sì, infatti adesso stasera è tardi, domani è sabato, immagino sia chiuso, ma la prossima settimana che ho qualche giorno di ferie mi muovo per fare questa roba qua, così vado e non ci penso più, anche quello va fatto. Sì, una volta questa commessa stavamo parlando, no, di quando eravamo giovani, che ho detto fammi vedere la fotografia della patente quando eri giovane. E dopo la patente ce l'aveva scaduta da 3 anni, non se l'era mai accorta, capito? Se non me ne accorgo, ho detto, ma questa patente è scaduta, chicca. E mi ha detto, come è scaduta? Fammi vedere. Oh, mamma mia, adesso cosa mi fa? Ho detto, oh, vai a fare la visita. Meno male non te l'ho beccato. Esatto, sì. Io ho sempre avuto la patente che mi durava 10 anni, però poi una volta che compi 50 anni e scade ogni 5. E la scocciatura è quella, che 5 anni passano veloce e te ne dimentichi, capito, se non stai attento. È che col cellulare mi ho messo lì tutte le scadenze e quindi ogni tanto vado a controllare e dici cavolo, la patente che mi scade i primi di gennaio e ci manca solo un mesetto, capito? E vabbè, si farà anche quello. Ogni tanto qualche rinnovo, qualche tassa da pagare, insomma, non scappiamo più dal pagamento di queste cose. Poi tutto magna magna, eh? Oh, yeah. E vabbè. Speriamo che non facciano quello che volevano fare, che vogliono farli fare gli esami a chi ha la patente tanti anni, li vogliono ogni rinnovo di patente, volevano farli fare l'esame di nuovo. Non credo che passi, perché la patente, una volta che tu fai l'esame, ce l'hai, basta. Tutt'al più è giusto così che magari dopo una certa età magari le visite mediche siano ogni 5 anni, il rinnovo ogni 5 anni, perché magari subentrano problemi di salute a seconda della patologia o la vita che cambia, capito? È giusto che sia così. Quello che non è giusto è le tasse che sono troppo alte, perché per rinnovare una patente io penso che 30-40 euro sarebbero stati più che sufficienti, invece magari ce ne vogliono 70, 90 o 100, capito? E così è troppo. Ma sono le scuole guida che ci guadagnano, Carlo, non è tanto la tassa, sono le scuole guida, ce ne sono certi che ti prendono 70, certi 80, al grattacielo volevano 80, io ho pagato 70, c'è qualcuno che ha pagato 100 euro. Lo so già, purtroppo è così, dove ti muovi e come ti muovi ormai è tutto a pagare, no? di gratuito no, non c'è niente, capito? Mamma mia, stiamo praticamente lavorando per pagare tasse, per pagare, io sono tutti i mesi, il mese scorso ho pagato la tassa d'esame di mia figlia che quest'anno c'ha l'esame di maturità e quindi è versamento alla scuola, è questo, sempre, non c'è mese che non c'hai una tassa da pagare. Fortunatamente non vado più alla posta e neanche alla banca, ormai col telefonino fai tutto, capito? Di buono c'è quello, però sempre da pagare di brutto. È un film che ho già visto, Carlo. Vabbè, finiranno anche tutti questi pagamenti, finiranno, magari è meglio spenderceli in faine o in pizze, no? Già. E vabbè, ma già ti danno anche gli assegni familiari, ti danno per il tuo figlio, non sono più dei maggiori. Allora no, mio figlio no, perché dopo i 21 anni hai solo le detrazioni, e invece per se hai un figlio che studia, ce l'hai gli assegni sino a 23 anni, capito? Adesso si chiama assegno unico e quindi mia figlia col passaggio alla maggiore età me l'hanno bloccato, sono dovuto andare, mi è arrivato il messaggio dell'INPS, l'assegno unico è per adesso bloccato, per confermarlo rivolgiti al patronato, quindi sono dovuto andare al patronato e farmelo riattivare, e praticamente volevano nella dichiarazione che è la fotocopia di un certificato di iscrizione a scuola, che lei è iscritta a scuola ed è studente, e praticamente ogni anno gli devo portare l'iscrizione per prendere l'assegno unico, hai capito? Se quando si iscriverà all'università gli devo portare il certificato che ti rilasciano all'università, capito? Però te lo danno sino ai 23 anni, dopodiché solo detrazioni. A me me l'hanno tutti e due a 18 anni, come hanno compiuto 18 anni, tutti e due i miei figli mi hanno tolto gli assegni familiari. Sì, esatto, e funziona così. Vabbè, poi le detrazioni sono una cavolata, praticamente ti risultano le detrazioni solo se i tuoi figli non stanno lavorando e ce le ha a carico tuo, capito? E quindi però ti togli una fesseria, è nuda, capito? È giusto una piccola agevolazione, ma niente di che. Marcello, passa sul passo, avanti Luca, ma Luca già fa radio. Cosa si vuol fare, Carlo? Siamo orati per soffrire. Vabbè, dai, pazienza, la vita è così. Paghi, paghi e paghi e buh. Va bene, non so chi ci sia rimasto in ascolto, c'era Natalino, Tonino, Luca, Antonio, vediamo se rientra qualcuno. Andati ce ne sono. E magari è ora, diciamo, di quasi di cena, e quindi la gente magari adesso rientra, componente familiare, eccetera, cosa si mangia, cosa non si mangia, e quindi giustamente qualcuno si è assentato e mi sa che anche io inizio a prepararmi, perché finita la fiaccolata mia moglie mi ha detto che mi mandava un messaggio, però iniziava alle 19 e finirà intorno alle 8, perché mi sono un po' riposato, prima mi sono messo comodo, non pensavo di uscire, invece mi tocca uscire, mi devo rivestire, sono in pigiama, capito? E quindi niente, adesso mi preparo pian pianino e poi rientrando ci prendiamo la faena, quindi tra una cosa e l'altra mangiare sarà alle 8:30, alle 9. Benemera Gianni, grazie delle quattro chiacchiere, anche agli altri amici, se chi siete in ascolto ritenetevi tutti super salutati. Gianni, aspetto il tuo finale e poi chiudo e vado a prepararmi. Ehi a Carlo, dai, ci sentiamo, grazie per il corso, buona serata a tutti e alle prossime. Ciao Carlo, ci sentiamo. Ehi, ciao Gianni, ciao a tutti, alle prossime. E Anto, Riccardo è già arrivato. Anto, sto preparando la minestrina. Vabbè, no, io mi faccio qualcosa di veloce, dai. Devo capire con le cipolle che mi piacciono un bel. È buona. E non è fatto preparare la minestrina. E io l'ho mangiata l'altro giorno che c'era freddo, non ho fatto la minestrina di dadi, ma era buona davvero, ci ho messo il sugo anche. E così la faccio io lo stesso, la faccio così, ci metto l'estratto che ho messo. No, io proprio sugo Antonella. Sì, estratto Antonella, era molto signosa. Io estratto non ne ho mai usato, mai, non ne uso. Sì, è buono, via. Prima mi ricordo io avevo un amico, quando lo vendevano sfuso, tu non l'hai conosciuto, ma prima lo vendevano sfuso, te lo mettevano la carta reata. E apriva il bacco e si lo bagnava l'uscì. È il sugo concentrato, eh. Già lo so, tu, dai. Vabbè, ti lascio che vado a portare giù il cane. Ciao, ciao. Ciao, già, ci sentiamo, guarda, io faccio la minestra.